giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Elezioni regionali a Gorizia, il primo confronto pubblico tra i quattro candidati alla presidenza. Ripresa tra alti e bassi per Confcommercio, imprese più fiduciose ma prestiti troppo onerosi. Balneari, dopo lo stop alla proroga delle concessioni, l'appello dei gestori, troppe incertezze. Palestre comunali di Udine chiuse per la Dunata Alpina, società sportive divise sulla scelta. La regione deve spendere 32 milioni di fondi europei entro l'anno, pesano i ritardi nazionali. Calcio, l'Udinese torna a vincere 1-0 in casa dell'Empoli grazie alla rete di Becao. 8:30 di domenica 12 marzo, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Subito il meteo: il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate questa mattina alle 7 a Trieste 6 gradi e mezzo, vento 44 km orari da est nord-est, bora con raffiche che nella notte hanno raggiunto i 70 km orari, a Udine 7 gradi, a Pordenone 7 e mezzo, a Gorizia 6 gradi e 5 decimi, sul Piancavallo e a Tarvisio 5 decimi di grado sotto lo zero, a Tolmezzo e Forni di sopra un grado, sul Monte Lussari meno 5, sullo Zoncolan meno 2 gradi e mezzo, sulla costa grado 7 gradi e 5 decimi, a Lignano 6 gradi e 5 decimi. E siamo alle previsioni, con cielo da poco nuvoloso a variabile, al mattino soffierà bora moderata sulla costa e pianura orientale. In apertura dunque la politica, la corsa alla guida della regione con i quattro candidati ieri sera a Gorizia. È durato un'ora e mezza il confronto tra i quattro candidati alla presidenza della regione, su cui gli elettori si esprimeranno il 2 e 3 aprile. Tutti esauriti i posti al Teatro Verdi di Gorizia per l'evento organizzato da Piccolo e Messaggero Veneto. L'unico confronto diretto previsto al momento tra i quattro, ad eccezione delle tribune elettorali RAI. I candidati sono stati invitati a parlare su 8 temi diversi per 1 minuto e mezzo ciascuno, oltre a una breve presentazione all'inizio e un appello al voto al termine, appello nel quale è tornato più volte il tema del contrasto all'astensionismo, così evidente alle ultime elezioni in Lombardia e Lazio. Due dei quattro sfidanti hanno parlato a braccio, Giorgia Tripoli di Insieme Liberi e Alessandro Maran del Terzo Polo. Aveva qualche foglio di appunti con sé Massimo Rituzzo, a capo della coalizione di centrosinistra, il presidente uscente Massimiliano Fedriga, a centrodestra, ha invece portato sul palco una cartellina con decine di pagine piene di dati e informazioni a supporto dei suoi 5 anni di governo. In primo piano i risultati economici positivi e il sostegno a famiglie e natalità. Moretuzzo ha puntato sull'ambiente dicendo no all'ovovia di Trieste, agli impianti sciistici a bassa quota, proponendo un assessorato al futuro pensato per i giovani. Maran ha espresso la necessità di interrompere il declino innanzitutto demografico della regione, puntando sull'innovazione per attrarre nuovi talenti. Per Tripoli bisogna fermare gli inceneritori, le importazioni di rifiuti da altre regioni, e vanno capiti i motivi per cui in Friuli Venezia Giulia ci sono i più alti tassi di tumore d'Italia. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo ad altri appuntamenti politici. Alle 11 il candidato alla presidenza della regione Alessandro Maran del Terzo Polo sarà a Gorizia in sala Dora Bassi in via Garibaldi. Reddito, diritti e dignità per un reddito di cittadinanza regionale. Alle 17 stand del patto per l'autonomia in piazza della Borsa a Trieste. Quale alternativa ambientale? L'incontro promosso dal Patto per l'Autonomia alle 17 a Firmano Premariacco in piazza della Chiesa di San Giovanni. Un caffè con i candidati dell'UDC dalle 9:30 alle 11 in via Mercatovecchio 11 a Udine. Economia terziario, imprese ottimiste sulla crescita, in particolare nel turismo, preoccupano però gli oneri finanziari per i prestiti. Cresce la fiducia delle imprese regionali del terziario nell'andamento della propria attività. La maggioranza delle oltre 1500 realtà intervistate prevede un incremento degli addetti e un aumento dei ricavi nel primo trimestre del 2023, soprattutto nella ricezione turistica e nei servizi alla persona. A dirlo è un'indagine Format Research per Confcommercio FVG. Alta la percentuale di ditte che riceve il credito di cui ha bisogno dalle banche, il 61%, contro il dato medio nazionale del 44%. Quasi un terzo lo fa per investimenti, dato che l'osservatorio accoglie positivamente. Anche se il rovescio della medaglia sono gli aumentati costi da sostenere per gli interessi di questi prestiti. Le note dolenti riguardano l'inflazione. Il 20% delle imprese intenzionate a effettuare investimenti nel 2023 rinuncerà a farli o li posticiperà. Da ultimo, dalla ricerca emerge un aumento delle cessazioni di attività nel 2022, un dato che risente di adattamenti statistici della coda lunga del post-pandemia, ma è comunque il più alto degli ultimi 12 anni. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Innovazioni in spiaggia, più servizi e destagionalizzazione nelle località di mare, ma i balneari si sentono frenati dall'incertezza sulle concessioni. Mentre le persone si godono l'aria di mare e il sole tiepido di metà marzo, i gestori delle spiagge di Lignano hanno già calendarizzato la preparazione dell'arenile. Lunedì i grandi trattori distenderanno le dune create dalla bora intensissima delle ultime settimane e si procederà al rifacimento della spiaggia. C'è chi aprirà la stagione a Pasquetta, altri con il 25 di aprile. A restare al palo però ancora una volta gli imponenti investimenti che si vorrebbero fare sulle spiagge, ma che vengono rinviati a causa della perenne incertezza sulle concessioni. Il Consiglio di Stato ha appena bocciato la proroga di un anno voluta dal governo, quindi le concessioni scadranno a dicembre 2023, come previsto. I concessionari non hanno dubbi, a pagare il conto è anche la clientela che non ha i servizi che potrebbe avere. Manuel Rodeano, presidente Lisagest. Non dimentichiamo che gli ultimi investimenti strutturali risalgono agli anni 80, per cui tutti gli accessi alla spiaggia, gli stabilimenti, verrebbero completamente rinnovati con criteri relativi alla domotica, all'efficientamento energetico, alla gestione delle acque reflue, quindi con criteri moderni. Il piano di rinnovamento della Lisagest, che conta 11 stabilimenti, vale 4-5 milioni, ma senza certezze non è realizzabile. Nessun direttore di banca ci può dare credito senza un orizzonte temporale certo, che adesso non esiste. Lignano, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Entro fine anno il Friuli Venezia Giulia deve spendere il 13% dei fondi di coesione europea a sua disposizione, milioni di euro che rischiano di andare persi. Il Friuli Venezia Giulia ha tempo fino a fine dicembre per spendere 32 milioni di euro stanziati dai fondi di coesione europea ed evitare così di perdere denaro già messo a disposizione per la regione. La cifra, calcolata dall'ufficio studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese CGA di Mestre, si ricava sottraendo dai 254 milioni assegnati nel 2014 per il settennio successivo i 222 finora spesi, pari all'87% del totale. Un traguardo, quello del pieno impiego del capitale ancora in cassa, che a detta dell'associazione per la regione a portata di mano, a differenza di quanto avviene in altri territori italiani, dalla Sicilia, che ha ancora a disposizione quasi 1,5 miliardi. Sbagliato però prendersela solo con le amministrazioni regionali per il mancato impiego delle risorse, perché circa i 3/4 del denaro stanziato fa capo allo Stato centrale e si riferisce a iniziative come i progetti dei programmi operativi nazionali a favore della parità economica e sociale. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Preparazione atletica sospesa per qualche giorno a maggio nelle palestre comunali di Udine, chiamate ad ospitare gli alpini del raduno. Palestre comunali chiuse a Udine dal 10 al 15 maggio per alloggiare fanfare e cori degli alpini. Ancora provvisorio il conteggio di tutte le strutture sportive tra città e provincia che daranno ospitalità alle penne nere. Strutture mobilitate tradizionalmente dall'ANA, soprattutto nei centri di medio-piccole dimensioni, dove non ci sono abbastanza alberghi. Rimini l'anno scorso fu un'eccezione, data la notevole disponibilità ricettiva della località romagnola. Non tutte le società sportive hanno accolto positivamente la notizia. Amerigo Pozzatello, presidente della Federazione Italiana Pallavolo di Udine. Siamo nelle fasi conclusive dei campionati, quindi dovremo sicuramente provvedere a rinviare degli incontri. Un anno di tempo sicuramente c'è la possibilità di fare qualcosa, di creare un tavolo, portando al tavolo tutte le istituzioni, tutti coloro che potevano essere coinvolti in qualche modo. La palestra di Laipacco ospiterà 8 gruppi alpini, il Pala Benedetti, un posto medico avanzato della Sores. Lucio Coccolo, concessionario di entrambe le strutture comunali, ha fatto l'alpino a Gemona durante il terremoto. Sono favorevole a ospitare i gruppi alpini al 200%. È proprio una forma di riconoscimento e formativo per i ragazzi che faranno anche loro volontariato all'interno della manifestazione. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi la 26esima edizione del Raduno Rosa 4x4 Ciao Elisa, dedicata ai veicoli fuoristrada e solo per donne, organizzata dall'associazione GFI Alpe Adria Off-Road. Parteciperà anche la Polizia di Stato di Pordenone. Appena cominciato alle 8.30 il ritrovo delle partecipanti nella sede del comune di Spilimbergo. mentre si terrà oggi a Pordenone e in altre città della regione una delle tappe del Giro d'Italia di plogging, attività che unisce sport e ambientalismo. Appuntamento alle 9.30 all'Imbarcadero sul Noncello. Ne abbiamo parlato con Gabriele Persson dell'associazione Ripuliamoci Challenge ODV. La nostra attività non è in sostituzione o in ausilio di quello che fanno le municipalizzate. La nostra attività è fatta per sensibilizzare le persone alla cura dell'ambiente. L'ambiente è la nostra casa e noi ce ne prendiamo cura. Non andiamo a fare concorrenza alle municipalizzate. Facciamo un'altra cosa, diciamo, raccogliamo rifiuti dove anche le municipalizzate non possono arrivare, quindi in aree magari private, in parchi, in zone che dovrebbero essere aree naturali, in realtà sono piene di rifiuti, che sono rifiuti che vengono abbandonati oggi, ma che magari sono stati abbandonati anche anni fa e che sono rimasti lì per moltissimo tempo. Quindi ci sono anche i rifiuti di una volta, diciamo, che trovate. Esattamente, in anni in cui la cultura dell'ambiente non era molto diffusa, era abbastanza normale purtroppo abbandonare rifiuti nelle forre, nei fossi, nel primo posto utile dove si trovava spazio per buttare. Ci sono oggi gruppi di cittadini che si occupano di bonificare queste zone, c'è il gruppo per rimanere al Friuli, l'SOS Carso, c'è un gruppo che si occupa del parco dell'Isonzo Campagnuzza, c'è un gruppo che si occupa di tenere pulite le spiagge della zona di Monfalcone, Staranzano e molti altri. Quindi siamo qui a Pordenone e ci occupiamo delle zone limitrofe alla nostra città. Ora lo sport, il calcio. Nell'anticipo di ieri pomeriggio l'Udinese ha battuto fuori casa l'Empoli per 1-0, rete realizzata da Becao all'inizio del secondo tempo. I bianconeri sono tornati alla vittoria dopo 6 partite. Sentiamo la soddisfazione di mister Sottil. Siamo stati bravi tutti, nel senso io, ragazzi, lo staff, la proprietà, il direttore, tutti. Però la squadra ha sempre offerto delle prestazioni importanti e non arrivava il risultato e ci siamo sempre detti che siamo noi che le determiniamo, siamo noi che dobbiamo volere la vittoria e siamo venuti qui a fare una partita contro una squadra molto forte, una squadra in un campo difficile, ma sapevamo che ci poteva mettere in difficoltà, però io penso che la squadra l'abbia creato tanto, si è andata meritatamente in vantaggio fino al gol, non solo, ho visto un bel calcio, visto che la squadra ha giocato e sapeva sempre dove mandare la palla. Abbiamo avuto tante occasioni nitide. È chiaro che poi c'è anche la forza dell'Empoli, non è che giochiamo da soli, però è chiaro che noi con questa formazione che ho scelto, che poi quasi sempre questa, ha dei giocatori molto fisici che ti impegnano sicuramente nei duelli e quindi secondo me ha fatto anche la differenza. Basket a 2 femminile, nel derby regionale ha vinto la Delser Women Up Udine in casa delle ragazze del Futurosa Trieste. Il risultato è stato di 61-52. Pallanuoto a 1 femminile, la Pallanuoto Trieste ha battuto la Briz di Catania per 10-4. Per la prima volta nella storia le orchette di Paolo Zizza sono aritmeticamente ai playoff scudetto della Serie A1. Nella pallamano invece passo falso di Trieste nel match contro Torri. Perde per 22-21, è la seconda sconfitta di seguito che rischia di mettere in discussione il secondo posto in classifica. Nel volley parte la fase della pool promozione, 6 nuove sfide per la CDA Talmassons e Peritas Martignaco che dovranno affrontare le prime 6 classificate dell'altro girone. Girone A si comincia oggi, Talmassons ospita il Sassuolo alle 17, alla stessa ora Martignaco giocherà in trasferta contro il Brescia. Per la 2 del volley uomini, la Tinet Prata gioca a Brescia, inizio alle 18. Biathlon, si conclude la serie di gare di Coppa del Mondo a Östersund in Svezia con le prove di compartenza in linea. Alle 13 c'è quella femminile, tra le favorite c'è la sappadina Lisa Vittozzi. Ieri si sono disputate le staffette, quarte le donne con la Vittozzi in ultima frazione, ottavi gli uomini, tra i quali il fornese Daniele Cappellari ha disputato un'eccellente prima frazione chiusa a ridosso dei primi. E in Basilicata si sta tenendo la 4ª edizione del Festival Italiano dell'Ultramaratona. Tra i corridori impegnati nella corsa di 6 giorni c'è il triestino Aldo Maranzina, campione della categoria over 75. Gli abbiamo chiesto come si sta preparando per la gara. Intanto devo battere il campionato del mondo della mia categoria, poi tutto il resto che verrà sarà tutto buon segno. E qual è la sua categoria? La mia categoria è sul 75. Lei quindi corre per 6 giorni di fila? 6 giorni consecutivi, sì. Praticamente devi gestirli tu le 24 ore come meglio credi, perché in sostanza chi fa più chilometri ha vinto. E lei quanti anni ha? E io purtroppo dico così, però non me li sento ancora pesanti, 76 quest'anno. E quanti chilometri fa in questi 6 giorni di solito? Il mio record è abbastanza avanzato, però è passato diversi anni, anche se non è stata ufficializzata la corsa di 957 chilometri. Arrivare alla sua età e fare tutta questa corsa, molta invidia, no? Più che invidia, direi che spero di dare un buon esempio ai miei contani, nel senso di qualche anno prima e qualche anno dopo, che si trovano a casa a dover fare divano e le pantofole, come diciamo di solito, no? Non è ancora arrivato il momento, capito? Certo, si può ancora fare qualcosa. Sicuramente, basta volere, guarda, volere e potere. Sì, è un po' di fatica, non metto in dubbio. Gli spettacoli, ora Pierfrancesco Favino accompagna l'uscita del suo ultimo film da protagonista, L'ultima notte di amore. Insieme a lui il regista Andrea Di Stefano saranno a Pordenone a Cinema Zero alla fine della proiezione delle 14.45 all'inizio di quella delle 17.15. A Udine al Cinema Centrale al termine della proiezione delle 16.45 e all'inizio di quella delle 19.30. La pièce L'onesto fantasma, creata da Edoardo Erba per Gianmarco Tognazzi, sarà stasera alle 20.45 al Cine City di Lignano Sabbia d'Oro. Corrado Tedeschi e Martina Colombari in scena con Montagne russe di Eric Assur nella versione italiana diretta da Marco Rampoldi e prodotta dalla Contrada di Trieste all'Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento alle 20.45. Si chiude la 46esima edizione di Musica Insieme con il recital per fisarmonica del musicista serbo Stefan Projovic a Pordenone, Auditorium Zanussi, nella Casa dello Studente alle 11. E si conclude a Udine la tournée regionale dell'orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, diretta dal maestro Romolo Gessi, la mandolinista Annalisa Desiata e la violoncellista Cristina Nadali, in un programma che spazia dal barocco ai giorni nostri, alla chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Paderno alle 16.30. Si apre a Trieste, in sala Xenia, la mostra di pittura dell'artista figurativo contemporaneo Saturno Buttò, 30 opere scelte dalla curatrice Emanuele Audia, che ripercorrono la produzione dell'artista veneto nell'ultimo ventennio, alle 18. E siamo alla rassegna stampa con Il Piccolo, che in entrambe le edizioni dedica la prima pagina alla politica con il confronto tra i candidati. Il confronto è anche il titolo che viene scelto come apertura. Nel primo faccia a faccia avvenuto al Verdi di Gorizia, il candidato del centrodestra Fedriga rivendica i risultati ottenuti sull'economia, Morettuzzo del centrosinistra attacca sulla sanità, Maran del terzo polo guarda i giovani e Tripoli d'Insieme chiede più aiuti alle famiglie. Nelle altre pagine un reportage dai locali di Barcola abbandonati e il restyling degli ultimi 3 topolini. Nell'edizione di Gorizia si segnala l'apertura dei primi 2 bandi da 420.000 euro da parte della Fondazione Carigo in vista di Gorizia 2025. In totale nei prossimi mesi saranno messi a disposizione 9 milioni. E ancora cambia la barca del Perdon di Barbana a Grado a trasportare la Madonna degli Angeli. Non sarà più la Stella del Mare, bensì la Regina del Mare. Mentre a Monfalcone 4 classi dell'Isis Pertini saranno traslocate in via temporanea in alcuni container. Anche il Messaggero Veneto ha in apertura il confronto tra i candidati alla guida della regione sull'edizione di Udine, la cronaca di spalla con il caso di Pagnacco, calcio prima categoria, botte all'arbitro, un pordenonese, partita sospesa, poi l'incendio dell'altra notte a Premariacqua, un cogeneratore, danni per 1 milione alla società Munda Vis, e poi ancora la scossa di ieri mattina a Preone. In basso, finalmente Udinese, torna alla vittoria dopo 6 giornate. Nell'edizione di Pordenone invece titoli anche per il decesso a causa di un malore di un dipendente italiano della base USAF di Aviano e le suore di clausura di San Vito, donne dell'anno per il comune. Pugno in faccia, arbitro in ospedale, l'apertura del Gazzettino che nell'inserto di Udine in prima anche il calcio, le falde inquinate in modo irreversibile secondo una mappa che è stata pubblicata dal quotidiano francese Le Monde, e l'incidente in montagna di ieri sul Plauris, oltre alla fuga dal pronto soccorso per diventare medici di base. Sull'edizione di Pordenone il malore fatale in base ad Aviano e la stazione di Casarsa inaccessibile ai disabili con il caso che arriva alla Camera dei Deputati. E per i programmi radiofonici della sede alle 9.15 la seconda puntata dell'originale radiofonico Teniamoci per mano. La programmazione televisiva regionale alle 9.15 su Rai 3, Alpe Adria Magazine e i filmati Il patto della farina di Diego Cenetiempo e Orto Sostenibile. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia. In regia Paolo Cassano, in redazione ha collaborato Daniela Sossi, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e ancora l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.